Santana. Kiwangambe mwanga wa mimi. Naongibeke wa Santana. Kwa todila ni mwanzibe. Kwa todila ni mwanzibe. Quanto di là si muove mamma, quanto di là si canto cava. Quanto di là si muove, quanto di là si muove, quanto di là si muove mamma, quanto di là si canto cava. Musima, musima, musima. Musima, musima, musima. The little skill will make you fatal. My living down the Santana. Senhoras e senhores passageiros, bem-vindos a Ecolibingo, o novo aeroporto do Dr. António Cristianete. Uau!